ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Oggi il governo potrebbe dare il via libera alle nuove restrizioni. Stop allo sport di contatto tra amici, stop alle feste private, chiusura dei locali entro la mezzanotte sono alcune delle ipotesi. A fronte di un virus che sta rialzando la testa con i ricoveri che crescono di altre 180 unità e le terapie intensive di 30. Cambiano intanto alcune regole. L'isolamento fiduciario scende a 10 giorni e basterà un solo tampone per uscirne e non anche quello di verifica. La settimana che si apre è importante anche sul fronte economico, con la scadenza del 15 ottobre per la presentazione a Bruxelles del piano di utilizzo dei fondi stanziati per contrastare la pandemia. Il resto della giornata del fine settimana è molto di sportivo, con Lewis Hamilton che eguaglia Michael Schumacher per numero di Gran Premi vinti e Rafa Nadal che eguaglia quello di Federer per numero di tornei slam vinti. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Sono le 6:30 minuti e 40 secondi. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, lunedì 12 ottobre. E c'è Carmelo Lauricella in regia, c'è Giorgio De Luca in assistenza in redazione. Il resto della redazione, come sempre, è composta da Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli e i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. Ci siamo anche oggi e anche per questa settimana, una settimana che si preannuncia faticosa. Per tutto quello che sappiamo, per queste nuove restrizioni in arrivo, per dati che non sono particolarmente confortanti, come avrete notato, perché qualche ascoltatore ci ha scritto sulla pagina Facebook via Messenger, sulla pagina Facebook di 24 Mattino. A proposito, siamo in diretta video, lo sapete. Qualcuno mi ha anche mandato le mail dicendo, spiegando esattamente come dovremmo trattare i dati che riguardano i contagi, non i contagi, esattamente come nel periodo più cupo della pandemia. Quello a cui stiamo guardando non è tanto la questione dei contagi, che sono ovviamente solamente la punta dell'iceberg, che comprendono tanti asintomatici, ma quello che ci interessa davvero è il numero di persone che finisce in ospedale con sintomi e il numero di persone che finisce in terapia intensiva, perché è quello che ci dà la misura dei rischi che eventualmente stiamo correndo, ossia quanto regge il nostro sistema sanitario. Punto. Il resto ovviamente è una gestione che, alla quale bisogna naturalmente prestare attenzione, ed è poi, penso, su questa base che il governo sta ragionando su queste nuove restrizioni. Un proviamo a giocare d'anticipo, la mette così il ministro Speranza ieri ospite di Fabio Fazio. Provare ad intervenire ancora con misure che sono, diciamo così, non paragonabili a quelle che abbiamo vissuto in passato. Sono degli interventi puntuali su alcune aree più a rischio, che però possono consentirci di provare a rimettere la curva sotto pieno controllo. Vediamo se ho capito e bene. Facciamo questo, voglio essere chiaro, lo dobbiamo fare subito, esattamente per evitare che poi ci dobbiamo trovare in condizioni di dover assumere misure più dure. Quindi proviamo a giocare d'anticipo, ecco, abbiamo ancora un vantaggio rispetto agli altri paesi europei. Ovviamente, se vorrete intervenire, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp. Qualcuno scrive: Simone, se bloccano ancora tutto, o mi danno 1000 euro al mese, o piuttosto faccio la galera. Amico mio, l'altro giorno abbiamo riferito dei racconti che arrivano appunto da, aperte virgolette, la galera, chiuse virgolette, e ti assicuro che la situazione è tutt'altro che rosea, anche per le questioni Covid, anche là lo era già da prima, potete immaginare come sia adesso. Se non sbaglio, caro Pietro Senaldi, direttore di Libero, siete proprio voi che ne avete scritto, Azzurra Barbuto aveva fatto un bel pezzo su questo, se non sbaglio. Buongiorno, come stai? Ah beh, sì, certo. Bene, bene, grazie. Sì, sì, certo, noi non siamo favorevoli, diciamo, alla linea del dell'ascoltatore. Cosa dici di queste nuove regole in arrivo, Pietro? Ma noi siamo sempre stati piuttosto critici nei confronti del governo. Su queste nuove regole, secondo me, non c'è da essere particolarmente critici, perché loro chiaramente stanno cercando di tenere aperto il paese, però introducendo delle norme secondo me anche abbastanza ragionevoli. Ora sarà molto criticato il divieto di trovarsi più di tanti in casa e via discorrendo, a parte che sulla casa non è neanche tanto verificabile, sì. Però quindi è più che altro un'indicazione. Io credo che il governo si stia muovendo in coerenza con quello che accade, ovvero sia il virus, come avevano previsto i vari scienziati, anche Remuzzi e via discorrendo, è più contagioso, però in questo momento è senza dubbio meno letale. E la scienza ci dice che era prevedibile che fosse meno letale. Ora io non so spiegare la ragione ovviamente sanitaria per cui lo è. E quindi, essendo meno letale, le terapie intensive sono piene solo al 9%, sì. Quando a marzo esplodevano. Quindi la situazione è molto seria, però non è drammatica, e questi sono i passi, secondo me, che sta facendo il governo. Sì, l'obiettivo è far sì che rimanga una situazione seria, ma appunto controllabile. Dice Speranza, bisogna alzare adesso il livello di attenzione. Sì, anche perché, ci sono interviste, per esempio, alle foche, noi abbiamo sentito le foche, si tratta di tenere duro, sempre a quanto dicono gli scienziati, 4-5 mesi, perché poi dovrebbero arrivare sia i vaccini che questa famosa cura tratta dal siero dei malati, che dovrebbe comunque aiutare. Guarda, Pietro, posso dirti una cosa? Io su questa storia dei vaccini vedo troppe sicurezze, in tutta sincerità, non solo da parte del nostro governo, da parte dei governi di tutto il mondo, compreso quello americano. Abbiamo avuto più volte ospite il professor Crisanti, il quale sarà tra l'altro con noi alle 8.45 di nuovo, il quale l'ultima volta ci ha detto: guardate che ci sono virus per i quali il vaccino non si è trovato, e non è ci sono ragionevoli speranze che per questo lo troviamo, però non è né sicuro che arrivi, né sicuro che arrivi in questi tempi, nei tempi nei quali ai governi piacerebbe averlo. Un po' l'impressione che sia anche una mossa politica da parte, no, dei governi un po' di tutto il mondo, di provare a gettare il cuore oltre l'ostacolo, dare un senso di speranza ai cittadini, a dirgli: guardate, da dicembre più o meno ne usciamo, da gennaio ne usciamo, che dici? Ma io dico che può darsi. Dico che però è legittimo che il governo ha fatto molto di peggio, e i governi del mondo hanno fatto molto di peggio, perché è giusto dare un orizzonte. Poi penso anche però che, siccome stiamo studiando 90-120 vaccini nel mondo e che tutto il mondo è proteso verso questo sforzo, confido, e siccome siamo alla terza fase in molti vaccini e stanno dando dei risultati abbastanza positivi, diciamo così, o confortanti, confido che arriverà. E poi confido anche però nella terapia, nella cura, in questo farmaco, sì, appunto tratto dal siero dei positivi. E quindi io non credo che finirà come la peste nera, che poi finirà perché c'è stata veramente l'unica diretta e sopporti tutti. Credo nella scienza e che l'umanità saprà reagire. Ancora Speranza, il quale dice: non ci sono estremi, però attenzione al linguaggio, perché non è che lo escluda totalmente. Però sentiamo, non ci sono gli estremi per un nuovo lockdown. In questo momento in Italia, in nessuna delle regioni, in nessuna delle aree, ci sono le condizioni per lockdown o interventi mirati. Così Speranza, il quale aggiunge sul tema delle feste private, no? Questa fase ciò che non è essenziale, prioritario, va gestito con assoluta attenzione. Ci sono i protocolli, per esempio, per tutta una serie di iniziative, ma non puoi avere un protocollo per una festa che viene fatta in una casa privata, ed è evidente che lì c'è un divieto che scatta. E anche là, come diceva giustamente Pietro Senaldi, è un po' difficile controllare, ci si affida di più a quello che è il senso di responsabilità dei cittadini. Scrive un ascoltatore a proposito della questione sanitaria, e facciamo ovviamente in bocca al lupo a sua figlia. Max dice: venerdì notte un'auto ha tagliato la strada a mia figlia che era in scooter, da allora è in rianimazione. Penso se fossimo stati in emergenza Covid con tutti i medici, i reparti e i medici impegnati in una situazione di stress. Hai perfettamente ragione, Max, in bocca al lupo a te, a tua figlia, naturalmente a tutta la tua famiglia. Dall'altra parte, diciamo, è questo il grande tema, no? Il tema di come tenere un po' più liberi i reparti anche per tutte le altre patologie. Pensiamo a quanti esami sono stati rinviati e quante situazioni di difficoltà ci sono state proprio nel periodo Covid, proprio per le persone che avevano delle emergenze di diverso tipo. Il tema della diagnostica, Pietro, volevi dire qualcosa su questo? No, sì, volevo semplicemente dire che a mio avviso è molto importante il tema delle zone rosse, che è quello che per esempio in Lombardia è stato sbagliato a marzo ed aprile, no? Perché la zona rossa permette al virus, al sistema sanitario di tenere. Questo è il punto, perché tu circoscrivi il virus, sì. E allora il sistema sanitario tiene, perché poi puoi mandare i malati altrove. Eh sì, se invece non circoscrivi, quello è il grande tema, è quello che stanno facendo altri paesi, lockdown localizzati, non dappertutto sta funzionando come i governi e come i decisori politici vorrebbero. Il tema della diagnostica, vogliamo sentire il vice ministro Sileri su come si fanno i tamponi, su come si controlla, eccetera, eccetera, via. Allora, il sistema si è preparato, ora però in alcune aree vi è un misuso del sistema, cioè si fanno dei tamponi a persone che il tampone non dovrebbero farlo in quel determinato momento, e molti altri purtroppo a casa aspettano, perché se devi fare 10.000 tamponi quando in effetti ne servirebbero 5.000, perché fare il tampone, io sento di persone che fanno il tampone il giorno dopo che hanno avuto un contatto stretto con un positivo, non serve a nulla, la ASL quel tampone non dovrebbe farlo. Temone questo, Pietro, anche qua sono delle direttive nazionali e a volte regionali, perché qua poi tutto si confonde, tutto si mescola, i livelli di responsabilità sono tantissimi, che hanno burocratizzato tutto il sistema e anche lo hanno reso un po' difficilmente comprensibile ai cittadini. Quando è che devo fare il tampone, come lo devo fare, se mio figlio si ammala di Covid, cosa succede, sono in isolamento fiduciario, anch'io non sono in isolamento fiduciario, se si ammala un compagno di classe di mio figlio che succede? Su queste cose stiamo diventando un po' matti, forse ci sarebbe bisogno di una campagna di chiarimento e di spiegazione un po' più ampia. Noi adesso finora abbiamo parlato bene, se proprio dobbiamo muovere una critica, dal mio punto di vista è proprio nella gestione dei tamponi e quindi nella fase preventiva. Le code che abbiamo visto sono spettacoli brutti, diciamo così. D'altronde non si può neanche spaventare i cittadini, perché è in un certo senso giusto spaventarli, e pensare che una volta che tu metti la gente nel panico, la gente si responsabilizzi. Perché questo è velleitario, diciamo così. Sì. No? Se tu decidi di forzare la mano, anche spaventando legittimamente la popolazione, poi devi saperne gestire il panico. Sì. Questo secondo me è un po' il punto debole del governo, e lì ci sta anche molto questa assenza di chiarezza e di coordinamento. Sì. Ci sarà anche la vera colpa del governo, ovvero sia si sapeva che questa seconda ondata si sarebbe arrivata, era annunciata, ma secondo il mio punto di vista non è stata adeguatamente preparata da questo punto di vista nei mesi. Sì, ci sono alcuni elementi, ti faccio un esempio, l'abbiamo citato molto nei giorni scorsi, la vicenda dei lavori per ampliare le terapie intensive che il governo ha stanziato a maggio un miliardo e 100 milioni, le gare partono arrivano oggi bandi di gara per ampliare le terapie intensive, chissà quando saranno conclusi i lavori, nel frattempo ce la si cava come si può. Ecco, queste cose, su questi elementi si potrebbe programmare un po' di più, in tutta franchezza. Sì, assolutamente, è la parte deficitaria, e insomma io credo che quest'estate, oggi Ricolfi sul Messaggero dice paghiamo diciamo così, è il risultato di un'estate pazza, di movide, eccetera, eccetera. Io non sono d'accordo con Ricolfi. Secondo me, se l'Italia ha avuto, sta avendo meno contagiati, è perché siamo il paese delle seconde case e perché la maggioranza degli italiani se ne sono stati ben tranquilli quest'estate. La maggioranza, ovviamente. Sì, poi vabbè, lasciamo stare tutto. Però, no? Io temo che anche il governo abbia fatto le vacanze, ecco, se ne sia stato ben tranquillo. Sei troppo cattivo, secondo me. Allora, c'è un altro punto sul quale vorrei portare, un punto un po' più politico. Lo sentiamo Luigi Di Maio sulla Raggi, quella parte sulla Raggi, sentiamolo, va. E non mi fossilizzerei su Sala, la Raggi o altri nomi, perché questi sono sindaci uscenti. Per me la Raggi ha lavorato bene, dovremo affrontare il tema insieme di tutte le città senza scaricare nessuno. E qua sul tema del grande accordo tra il PD e il Movimento 5 Stelle sulle città, la grande trattativa in corso che non si sa esattamente dove porterà, di certo ieri Pietro mi è parso che Di Maio con queste parole di fatto la Raggi l'abbia scaricata, così l'hanno letta molti 5 Stelle, però mi pare che ci siamo. Sì, diciamo così, in questa trattativa 5 Stelle e PD il problema è quando il candidato uscente ce l'ha i 5 Stelle, perché quando ce l'ha il PD a me sembra che i 5 Stelle siano più che disponibili nel sostenerlo, però oggettivamente il caso Raggi è un esempio piuttosto negativo di amministrazione. Ora io non voglio infierire su di lei perché ritengo che Roma sia forse uno dei comuni più difficili da gestire in questo paese e che il 90% dei problemi di Roma non li abbia creati la Raggi. Però Pietro io ricordo sempre questo, una frase. Allora, quando i Savoia entrarono a Roma, siamo nel 1870, viene messo come commissario alla città il generale Cadorna, il quale dopo 3 giorni manda una missiva al re nella quale gli dice: sire, questa città è ingovernabile. e qua mi sembra che sia rimasta più o meno uguale negli ultimi 150 anni, sostanza. Sì, infatti il problema è che qui non si capisce chi se la voglia pigliare, diciamo così, forse candidano la Raggi, sì, perché è l'unica disposta, sì, a immolarsi per altri 5 anni. O Calenda che sta là, che fa la sua battaglia politica, e là vedremo come andrà a finire, se il PD gli darà spazio o non gli darà spazio, chissà. Traffico. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Well, thank you very much, and keep that enthusiasm going. Get out and vote. We gotta vote. We gotta vote these people. Ed eccolo qua, nelle scorse ore, il presidente americano Donald Trump introdotto. Queste cose le fanno solo, quanto le fanno bene gli americani, introdotto così, si toglie la mascherina, saluta, dice: sono immune. Alessia De Luca, analista dell'ISPI, si occupa di Stati Uniti. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, è chiaro che la malattia di Trump ha un impatto pazzesco sulla campagna elettorale, ma che tipo di impatto possa avere non è proprio chiarissimo. Che ci dice lei? Ma è passata una settimana più o meno da quando il presidente ha annunciato la positività, non si sa tra l'altro quando sia stato il suo ultimo tampone negativo, perché su questo la comunicazione della Casa Bianca è stata un po' fumosa, e anche quella dei suoi medici, diciamo. Sappiamo soltanto che appunto nelle ultime 24 ore Trump ha dichiarato di non essere più contagioso, anzi di aver sviluppato una sorta di immunità quasi alla malattia. da un punto di vista politico i sondaggi ci dicono che il presidente non sta riuscendo a recuperare quello svantaggio che aveva sullo sfidante Biden, che a livello nazionale ha raggiunto più o meno il 12% secondo la media dei sondaggi. Perché? Forse anche perché il modo che ha avuto di gestire questa malattia, ricordiamo che gli Stati Uniti sono uno dei paesi più colpiti dalla pandemia, sì, dal Covid, con 213.000 morti, quasi 8 milioni di contagiati, quindi tornare dopo una settimana e dire alla gente in fondo non è niente, forse non è stata la strategia più lo ha aiutato da un punto di vista politico, ecco. E poi c'è tutto il tema di come sta veramente Trump, nel senso che De Luca, questo non è chiaro, dalla Casa Bianca fanno filtrare solamente le informazioni che vogliono, c'è una certa carenza di trasparenza su questo fronte. Sì, diciamo che appunto è un po' fumosa la comunicazione della Casa Bianca al riguardo. Sappiamo che Trump è stato ricoverato e che inizialmente era in buone condizioni, dopodiché si è capito che ha avuto bisogno, i medici hanno fatto ricorso all'ossigeno e che adesso i medici gli hanno somministrato un mix di medicinali, tra cui anche antinfiammatori steroidei, tutti i medicinali insomma che hanno ritenuto necessario, ma che non sono stati nel dettaglio specificati. Tra l'altro adesso Trump ha detto di essere guarito completamente e quindi di non fare più ricorso neanche alle medicine. Il suo comportamento degli ultimi giorni è stato talmente sopra le righe anche per Donald Trump che i democratici, dal punto di vista politico è anche abbastanza chiaro il concetto, però hanno chiesto una commissione che valuti le condizioni fisiche e se è ancora in grado, sì, di svolgere il suo incarico. Perché diventa a questo punto una questione istituzionale, no? Può il presidente degli Stati Uniti, comandante in capo, eccetera, eccetera, essere in una condizione di minorità fisica e continuare a guidare il paese? È questa la grande questione adesso, è quella che stanno un po' sollevando i democratici. Esatto, facendo ricorso a quello che è il 25esimo emendamento della Costituzione, che prevede che nel caso in cui il presidente non sia più in condizione di svolgere appunto il suo incarico, anche solo temporaneamente, possa essere fatto subentrare il vicepresidente. E De Luca, poi c'è questo complottone che circola, no? Trump, ce lo scrive un ascoltatore, Trump non si è mai ammalato, non è immune, è solo furbo, ossia ha fatto la scena per dare una virata alla campagna elettorale, per concentrare nuovamente l'attenzione su di lui. In realtà Covid non ce l'ha mai avuto, e anche quella scena alla quale tutti abbiamo guardato con una certa perplessità, no? Lui che sale le scale, si toglie la mascherina e respira affannosamente, beh, anche quella scena era una finta. Sì, virata che però non c'è stata, nel senso che davvero può essere stato tutto un complotto, e ripeto, di questo non ci sono comunque le prove, quindi mi certo. rendo conto che è una campagna elettorale talmente surreale da portare poi in un'epoca di fake news a pensare che diciamo non è più vero nulla, neanche le comunicazioni che arrivano dalla Casa Bianca, però non ci sono prove che hanno questa posizione. Ma se anche fosse stata tattica politica la virata, che evidentemente Trump se lo spiegava, non c'è stata, è sotto del 12% appunto a livello nazionale, del 7-8% in stati come stati sì. Amici, stati chiari. De Luca, abbiamo purtroppo un problema di audio, la stiamo un po' perdendo, però il punto mi pare chiaro. scrive un ascoltatore, la vostra campagna pro Biden è beh certo, perché noi innanzitutto perché noi spostiamo voti, certo, naturalmente. In realtà stiamo cercando un po' di raccontare quello che succede, cercando di farlo con col massimo della tranquillità in una campagna pro o contro Trump. È semplicemente un tentativo di analisi di quello che succede. E dice un ascoltatore: pensate se Trump rivince le elezioni, che ridere. Non è ridere o non ridere, semplicemente può darsi che succeda, visto quanto i sondaggi poco ci hanno azzeccato nel corso degli anni. Prima di chiudere, diamo un'ascoltata molto molto rapida a Luca Palamara. Nel fine settimana, dopo la condanna, è stato radiato dalla magistratura, ben lo sapete, sentiamo la sua voce, va. Quello che dico che porto e porterò sempre la toga nel cuore, e i principi e i valori a cui mi sono ispirato li metterò a disposizione della collettività, e oggi ho aderito alle iniziative e alle battaglie del Partito Radicale per il discorso di una giustizia giusta. Penso sì di aver pagato per tutti. Non rinuncia alla toga per sempre, farà ricorso, andrete avanti? Ricorso, andrò avanti con il ricorso alle Sezioni Unite, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Un capro espiatorio, dice di sé Luca Palamara, sarà nostro ospite alle 8:35. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp. Ci sentiamo dopo il GR, con la rassegna stampa. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.